e tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ristoradio Convento è il luogo per raccontarsi, per raccontare, dove raccontiamo appunto gli eventi, le esperienze dei nostri festeggiati e dove regnano anche dei colori. In questo caso il colore dominante è il bianco, perché stiamo festeggiando un futuro matrimonio. Anche lei è vestita di bianco, la protagonista, ma non solo, perché tutte le ragazze che l'accompagnano lo sono. Mi viene un po' da pensare che quasi, come dire, il bello, l'estetico, il valore estetico sia anche importante all'interno di questo gruppo, e scopriremo meglio il motivo, e c'è un motivo. Intanto festeggiamo insieme Paola, che abbiamo ai nostri microfoni, e la conosciamo un po' meglio. Paola, benvenuta! Benvenuti a voi, grazie! Oh, che bello, è la prima volta che qualcuno ci dà il benvenuto a casa nostra, e quindi è molto interessante come dinamica. Allora Paola, da dove vieni? Da Orzi Nuovi, in provincia di Brescia. Molto bene, e ci devi dire assolutamente cosa stai festeggiando insieme a noi questa sera. Il mio addio al nubilato! Ho bevuto poco allora. Ah, ok, perché ancora se lo ricorda, quindi grazie Paola, perché ci stai raccontando delle grandi verità. Allora, chi è il futuro marito, il futuro fortunato? Alessandro. Alessandro. E poi Alessandro! Attenzione Paola, musica di tensione, che non c'è, ma immaginiamo ci sia. Io mi preoccuperei del fatto che ci sono stati più applausi e più motivi di gioia per Alessandro che quando ho presentato te. Esatto, anch'io me lo sono portato. Quindi c'è qualcosa che non mi torna. Attenzione. E come si dice in un famoso detto che magari conoscerai, gatta ci cova. Non so chi stia covando, gatte, non so chi stia covando qui, ma magari qualcuna sta covando. Attenzione, attenzione. Se, come direbbe qualcuno meglio di noi, e lo dirà magari tra qualche giorno, se qualcuno ha qualcosa da dire, parli ora o taccia per sempre. Esatto, questo è il momento giusto. Sempre. Niente, niente. Tutto tranquillo, tutto tranquillo. Intanto sono tornati elefantini, esatto, esatto. Allora, sposa Alessandro il 6 ottobre, mi dicevi, e parlavamo prima del bello, del fatto che sono tutte bianche. Perché il bello, diciamo che è una costante della tua vita, possiamo dirlo così. Raccontaci un po' perché, so che hai anche un bellissimo lavoro che immagino anche ti appassioni molto. Dici un po'. Ho un centro estetico Orzi Nuovi, sì, dove mi curo della bellezza delle donne. Ma solo donne, noi non possiamo entrare, donne, quindi. Uomini. Oh, bene, bene, bene. Donne. Allora, dai, come si chiama il centro estetico? Diccelo bene al microfono, Orfeo! Così facciamo. Orfeo, e come mai questo nome particolare? La luce della musica, la musica rispecchia il benessere delle persone. Ma mi piace questa, ripetila bene, perché questa può essere proprio la frase all'ingresso del tuo centro. Orfeo, il dio della musica, nonché il benessere delle persone, rispecchia il benessere delle persone. Fantastico, fantastico. E qual è il tuo cavallo di battaglia, Paola? Io sono una massaggiatrice, quindi massaggi, quindi vedo già, come dire, una lista lunghissima di prenotazioni di persone interessate, anche perché, come diceva una collega, giusto? Esatto. C'è un qualcosa che ricorda Belen Rodriguez in questa ragazza, quindi immaginate un massaggio da Belen Rodriguez, però di Orzi Nuovi. Quindi, mi dispiace, ma per la Rodriguez non mi piace. È più bella, Paola. È più, ancora più bella. Infatti, detto, la ricorda solo, ma è ancora più bella. Quindi immaginate una bresciana con i, come dire, i tratti distintivi. I tratti distintivi di Belen Rodriguez, che vi fa un massaggio, uno spettacolo, uno spettacolo. Dicevo che non sei sola, perché sei accompagnata da un bel gruppetto di amiche e ragazze. Che adesso si sono ricordate che esisti anche tu in questa festa e ti hanno fatto un applauso, mentre fino ad ora tutti gli applausi stavano per Alessandro. Allora direi, Paola, grande festa per Alessandro. Io ti invidio molto, perché se sei così ben voluto da tutte queste ragazze, un motivo ci sarà, ma non vogliamo scoprire quale. Non lo vogliamo scoprire, tranquilla. Allora Paola, diciamo che come da vera, come dire, proprietaria di un centro estetico, fai un po' gli onori di casa e presentaci anche chi ti accompagna stasera, ti va? Certo, assolutamente, la mia migliore amica, nonché mia testimone, Rosy. Ciao Rosy. La mia amica Sara. Ciao Sara. La la Rosy, tra l'altro, oltre ad essere mia testimone, sarà anche colei che ti pettinerà il giorno del mio matrimonio. Uaila, però, brava Rosy. Se la sente ancora, perché è già, diventata più bianca del bianco che già aveva prima. Ok, poi c'è la mia collega, come dicevi tu prima, tecnica delle ciglia, lei è molto brava nell'extension ciglia, ragazze, occhio, perché se volete uno sguardo bellissimo dovete rivolgervi a me. Già sta venendo voglia di farmi le ciglia. Ucraina, non Italia, Ucraina. Ucraina con la K. La nostra è Anastasia, poi c'è la mia bellissima cognata. Cognata, quindi amore. La sorella di Alessa. Famiglia. Valentina. Valentina, volevo dirti di non illuderti, gli applausi non erano per te. So che per qualche secondo ti sei sentita importante, ma ti ho voluto smontare. Lei è la testimone dello sposo, quindi è importantissima. Molto. Brava. Vai, amore, come mia mamma Valentina. Poi c'è una nostra carissima amica Marina. Marina. Ciao. Ciao Marina. Anche lei è una tecnica del benessere, perché è un centro estetico anche lei vicino a Zinovia ed è molto brava. Bene, mi piace questa tua, come dire, fratellanza. E non denigri i centri estetici degli altri. Assolutamente. Bravissima. E poi c'è la nostra cara amica che è Brunella di Montichiari. Benissimo. Allora, grazie ragazze per averla portata intanto qui da noi. Poi in pista ci sono ancora mia sorella, altre amiche, ma stanno ballando, stanno bevendo, si stanno divertendo. Le salutiamo tutte. Allora Paola, c'è anche un elefantino, un intruso, certo. Col suo naso. Dicevo, è altro sposo del 6 ottobre, ma non riguarda il mio matrimonio. No, magari lo riguarderà, che ne non sai? È Alessandro. No, non è Alessandro. Paola, ti va di, o se vuoi, di prendere ancora qualche secondo per dire qualcosa al microfono, approfittare di questa occasione? Se no, salutiamo ed è stato bello così. Allora, io volevo ringraziare tutte coloro che si sono impegnate per rendere unica questa serata per me. Io sono contentissima, sono senza parole, sto ancora sognando. Le immagino ancora lì a stappare la bottiglia per me e non dimenticherò mai questo momento. Bello! Bellissime parole davvero, grazie mille Paola, grazie a voi ragazze per essere state con noi e per averla portata qui, e in bocca al lupo allora per questa bella festa, immagino che ci sarà, e in bocca al lupo per il tuo futuro. A presto! Grazie.